E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, le borse, bene oggi le borse, più 2,1% sulla scia anche di una nota della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, arrivata ieri in serata. La Federal Reserve in sostanza ha detto di essere pronta a intervenire, se ce ne fosse bisogno, chiaramente, con un nuovo piano di allentamento monetario. Nel breve termine, tradotto dal gergo, diciamo, finanziario, significa che è pronta ad abbassare i tassi di interesse, per quanto siano ormai praticamente a zero, ma soprattutto a garantire liquidità al sistema. Il testo infatti recita: un nuovo piano di allentamento monetario negli Stati Uniti potrebbe essere appropriato nel breve termine. Questi i verbali della Federal Reserve. Hanno reagito positivamente tutte le borse, devo dire Milano più 2,1, Parigi in questo momento più 2, Francoforte più 2,3, l'America guadagna un punto percentuale, Londra l'1,6%. È di nuovo forte l'euro, ma ormai insomma non possiamo sempre stare su questo tema, siamo a 1,40 quasi, 1,39,9. Tra i titoli che vanno particolarmente bene, Azimut più 4%, UbiBanca più 3,70 e poi Saipem più 3,5, Generali più 3,4, il 3% lo guadagna ST Microelectronics, ma anche Mediolanum, il 2,80 Intesa San Paolo e Bulgari, il 2,70 rialzo di Luxottica, di Pirelli e di Prismian, il 2,6 quello di Mediaset e Impregilo, il 2,2 rialzo di Italcementi ed Enel, il 2,1 quello di Unicredito e delle CIR, infine l'1,90% lo guadagna Eni, ma l'1,80 lo guadagna Parmalat. Chi perde praticamente nessuno. Oh no, adesso ci sono due titoli: Autogrill meno 0,5, l'Automatica meno 0,4%, ma per buona parte della seduta non c'era tra i titoli a maggiore capitalizzazione nessun titolo negativo. In assoluto, di nuovo, la Lazio più 12%, Fiera Milano più 9,90 e invece il peggiore in assoluto è Danone, meno 3,5%. Dicevamo, in apertura parleremo delle anticipazioni che ha avuto il Sole 24 Ore sui nuovi accertamenti per la categoria degli autonomi, accertamenti fiscali. Accertamenti anche incrociati. Poi ci occuperemo del rapporto Caritas sulla povertà, già i nostri GR vi hanno anticipato qualcosa. Nella seconda ora parleremo di formazione di classe dirigente, ma soprattutto di formazione, e lo faremo con il direttore della LUISS di Roma, Pierluigi Celli, anche perché la LUISS questo sabato darà il via all'annuale incontro per i giovani under 35, ma sarà anche l'occasione di toccare un tema che insomma è stato sollevato in un fondo di Ernesto Cari della Loggia sul Corriere della Sera, e mi riferisco alla scelta di molte famiglie italiane di mandare i figli a scuole private e non più statali, ma private e soprattutto straniere. È come dire una sfiducia, così nel fondo di Cari della Loggia, una sfiducia verso il sistema dell'istruzione italiano. Il tema comunque sullo sfondo resta quello della formazione di classe dirigente, della formazione dei nostri giovani soprattutto. Ancora, per quello che riguarda i dati invece di carattere strettamente finanziario ed economico, avremo un'intervista con l'amministratore delegato del gruppo Intel Italia e Svizzera, perché Intel oggi ha registrato un utile da record, un più 50% nel terzo trimestre rispetto a quello precedente, mentre però il settore dell'information technology segnala cali anche significativi soprattutto nel comparto dell'hardware. Fiat, volete sapere di Fiat? Adesso vi arriviamo, smentite le voci di Toyota di un interessamento per Termini Imerese. Fiat comunque guadagna l'1,3%. A me non resta che darvi il numero per i vostri sms, che è 349-238-6666, e iniziare con le notizie in breve. L'oro sale a quota 1,3558, praticamente siamo 1358,95 dollari l'oncia, più 0,6%, anche il petrolio in leggero rialzo dell'1,4% a 82,82, sembra quasi un numero da giocare all'otto, dollari al barile. Il rapporto del WWF, che anche in questo caso verranno anticipati i nostri GR, comunque il rapporto biennale Living Planet Report, in sostanza dice che se continuiamo a consumare le risorse nel nostro pianeta con i ritmi attuali, nel 2030 ci vorranno le risorse di due terre, di due globi. E poi si registra una diminuzione del 30% dello stato di salute delle specie globali, con picchi fino al 60%. È una domanda di risorse naturali che richiede già oggi la capacità bioproduttiva di un pianeta e mezzo. E adesso parliamo di Google, perché già ieri ha fatto notizia l'intenzione di Google di creare il suo indice dell'inflazione misurato attraverso l'andamento degli acquisti online, un indice che, stando alle prime stime, vedrebbe i prezzi essere in deflazione, cioè quindi calare. E oggi è emerso che Google invece si è unito a un gruppo finanziario di New York in un piano da 5 miliardi di dollari per realizzare offshore, cioè fuori dalla costa, in mare aperto, lungo la costa atlantica degli Stati Uniti, una vera e propria spina dorsale per impianti eolici, 630 chilometri di area, in grado di collegare turbine eoliche per 6.000 megawatt di potenza, il che permetterebbe poi di servire quasi 2 milioni di case. Insomma, anche Google, nonostante sia leader nei motori di ricerca, diversifica i suoi investimenti. Dato interessante sulla benzina, invece, si allarga il divario tra quanto costa al nord e al sud. Le maggiori efficienze del sistema distributivo del nord, infatti, permette una rete più moderna e competitiva, lo dice il quotidiano Energia, permette alla benzina di essere fino a 10 centesimi più bassa come costo di quanto non si paghi al sud. Praticamente per un'auto di media cilindrata stiamo parlando di un aggravio per chi abita nel mezzogiorno di 5 euro a pieno. E questo appunto grazie soprattutto alla rete distributiva del nord, dove sono più presenti pompe bianche e GDO. Le pompe bianche sono quelle senza un logo. E allora facciamo arrabbiare gli ascoltatori adesso, perché ci occupiamo di bonus di Wall Street. Mentre la JP Morgan registra un utile netto superiore alle stime, anche questo ha ben influenzato la borsa, più 23% a 4 miliardi e 420 milioni di dollari. E dice tra l'altro il numero uno, Jamie Dimon, stiamo andando molto forte nel settore mutui. Con quello che è successo, auguri. Dicevo, mentre JP Morgan continua a macinare utili come moltissime banche d'affari americane, oggi si è scoperto che le grandi aziende quotate a Wall Street, quotate in borsa, in particolare quelle del settore finanziario, si preparano a pagare compensi e bonus ai manager e dipendenti record, 144 miliardi di dollari, il 4% in più rispetto a quanto avvenuto nel 2009. Su 35 società, le principali 26 hanno alzato i compensi e in 29... sono aumentati anche i ricavi, ma la cosa importantissima è che l'aumento del fatturato in termini percentuali è inferiore all'aumento dei compensi, quindi non c'è una giustificazione legata all'andamento del fatturato. Allora, poi arriveremo anche al balzo record delle riserve valutarie cinesi, alimentate dal boom delle esportazioni di Pechino, balzo record nel terzo trimestre, 2.650 miliardi di dollari sono le riserve in valuta che ha la Cina, con 194 miliardi in più solo nel terzo trimestre. E anche questo è uno degli elementi della guerra valutaria in corso tra Cina e Stati Uniti, con conseguenze anche tra Stati Uniti ed euro. Dicevo, smentita da Toyota invece l'interesse per Termini Imerese, assolutamente infondate le indiscrezioni di stampa, era circolata infatti intorno alle tre la voce che fosse anche un interesse di Toyota per Termini Imerese, oltre a quello già avanzato da cinque gruppi, quello di Gianmario Rossignolo, la Kepreva del finanziere Simone Cimino, la Engineering, il gruppo Ciccolella e la società di produzione cinematografica Einstein. Di Caritas parleremo più avanti, adesso partiamo con il primo tema, un tema che ci sta a cuore, lo sapete, l'efficienza della pubblica amministrazione da un lato e la lotta all'evasione. Dall'altro, sul Sole 24 Ore, le anticipazioni di indagini della Guardia di Finanza che riguardano la categoria dei professionisti in generale, ma soprattutto i dati su quanti hanno nascosto i guadagni e il tipo di controlli effettuati. Allora, siamo con Salvatore Padula, del Sole 24 Ore. Salvatore, buonasera. Buonasera. La cosa interessante, voglio dire, che ci sia un alto tasso di evasione in questo paese, lo diciamo spesso, la cosa interessante che voi avete rilevato è da un lato il tasso, cioè dei professionisti che hanno percepito compensi per consulenze sopra i 100.000 euro, uno su tre ha nascosto il guadagno al fisco, secondo comunque la Guardia di Finanza sarebbe la punta dell'iceberg di un fenomeno ben più diffuso, cioè si sono occupati delle consulenze, dei professionisti, ma non solo. Salvatore. Ma diciamo che è stata fatta in realtà un'operazione abbastanza semplice. Sono stati analizzati i modelli 770 dei sostituti d'imposta, che insomma è la dichiarazione dei redditi che ogni anno le aziende, le società grandi e piccole, ma anche gli enti pubblici presentano al fisco, e sono andati a verificare all'interno di questi modelli 770 se i compensi che erano stati erogati per consulenza trovavano poi una corrispondenza nei modelli unici presentati dai singoli contribuenti. È venuta fuori questa fotografia, hanno fatto una prima scrematura di 1500 verifiche a campioni che riguardano, come ricordavi tu, i compensi percepiti superiori a 100.000 euro, ed è emerso che quasi 400 contribuenti, professionisti, non avevano dichiarato nulla al fisco. Mediamente si tratta di importi che si aggirano intorno ai 400.000 euro, quindi non parliamo insomma di cifre piccole. E la cosa interessante secondo me è che questa è veramente solamente una piccola parte del lavoro, nel senso che sono andati a intercettare solamente quelli che non hanno dichiarato nulla, quindi reddito zero, possiamo dire così, mentre ancora stanno lavorando su quelli che hanno dichiarato solo in parte i compensi che hanno percepito, fenomeno anche questo abbastanza purtroppo diffuso, insomma. Ecco, su questo abbiamo preparato una scheda, poi vorrei capire il periodo a cui hanno fatto riferimento come dichiarazione, le ultime dichiarazioni dei redditi per quanto riguarda l'operazione chiamata Income Zero. Income Zero, guarda, mi sembra di ricordare che abbiano preso a riferimento gli anni d'imposta 2007-2008 e siano andati a verificare se nelle dichiarazioni, appunto, certo, dei contribuenti erano stati dichiarati quei compensi. La scheda. Se a dirsi sbalorditi sono gli stessi uomini dei nuclei speciali della Guardia di Finanza, significa che i numeri dell'evasione tra autonomi e professionisti devono essere davvero scioccanti. Del resto, in un'operazione che ha coinvolto 1.500 soggetti, sono stati scovati 400 evasori totali, con poco meno di 160 milioni di euro, spariti dalle dichiarazioni IRPEF, per una media di 395.000 euro a testa. In pratica, quasi un professionista su tre ha incassato completamente in nero il compenso per le sue consulenze. A questa cifra vanno poi aggiunti 23 milioni di IVA evasa. Ma quel che più preoccupa è che, secondo i finanzieri, si tratterebbe soltanto della punta di un iceberg che galleggia nel vasto e profondo mare del nero. Nel bilancio delle Fiamme Gialle c'è però anche una nota di ottimismo. La speranza è infatti quella di aver scoperto, grazie ai nuovi metodi di indagine, la vena d'oro che conduce al grande giacimento di ricchezze sottratte alla collettività. Tra le varie categorie sono medici, ingegneri e geometri ad aggiudicarsi il primato dell'evasione, con oltre il 15% del campione risultato non in regola con il fisco. Seguono gli avvocati, 10,7%, gli architetti, 5,9%, gli intermediari del commercio, 5,6%, e poi lavoratori dello spettacolo e consulenti aziendali, entrambi con il 3,8%. Com'è facilmente immaginabile, l'evasione dei professionisti si concentra nelle aree con grandi città e a maggiore intensità di servizi. In pole position troviamo così Lazio e Lombardia, entrambe con circa 42 milioni di euro sottratti al fisco, seguite dalla Campania, con 15 milioni, da Puglia e Piemonte, con 8 milioni a testa, e dalla Sicilia, con 6. Allora, io dico, attenzione, non cadiamo nei luoghi comuni, lo so, avete scoperto l'acqua calda oggi. Allora, intanto, per carità, possiamo scoprire anche noi l'acqua calda, ci mancherebbe, però c'è un elemento, io non vorrei che passasse sottotono, un elemento nuovo in questa inchiesta. Al di là del rapporto, Salvatore Padula, cioè 324 evasori totali su 400, che è una cifra altissima, evasione per 260 milioni, uno su tre ha nascosto guadagno al fisco, e al di là, lo dico con estrema tranquillità, delle categorie che sono emesse, cioè il 15% dei medici, il 15% dei geometri, degli ingegneri, il 10% degli avvocati, il 6% degli architetti, e poi lavoratori dello spettacolo, consulenti aziendali, c'è anche qualche giornalista, così anticipo la domanda. Cos'è la novità? Perché posso anche capire l'obiezione di chi dice, ma insomma, state parlando del fatto che la Guardia di Finanza ha scoperto che da noi evadono molto il lavoro, cioè nelle dichiarazioni dei redditi. È chiaro che così non è. Prego, Salvatore. Ma guarda, io tutto sommato non ho un'opinione molto diversa da quella dell'ascoltatore, che ci diceva scoprite l'acqua. Sei una quinta colonna. No, perché dico paradossalmente, qui diciamo la cosa veramente scandalosa secondo me è che un'operazione di questo tipo, che è un'operazione assolutamente elementare, cioè una cosa veramente banale, perché prendiamo i dati che ci comunicano le aziende, gli enti pubblici, eccetera, e li incrociamo banalmente con quelli dei contribuenti, quindi facciamo una cosa. In realtà la Guardia di Finanza ha fatto una cosa che l'amministrazione tributaria fiscale doveva fare da 20 anni, da 30 anni a questa parte. Anche perché è tantissimi anni che l'amministrazione ha gli strumenti informatici, la base dei dati per fare questa cosa. Quindi quello che sorprende è che... È che non si fosse fatto prima. Quindi io, ecco, non vorrei dire una cosa, come dire, non in linea con il tuo pensiero, però sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore. Cioè, scopriamo l'acqua calda. Sì, ma scopriamo l'acqua calda perché purtroppo, evidentemente, anche queste modalità così semplici sono state utilizzate solo parzialmente o evidentemente non in modo completo, non in modo così analitico e dettagliato come invece è stato fatto in questo caso. Probabilmente oggi, se queste cose fossero state fatte in passato, non saremmo qui a parlare tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, dei 120, 130, 150 miliardi di evasione fiscale. Ecco, questo è quello che io penso. Dopodiché è ovvio che bisognerà andare anche a vedere bene dentro questo 400 persone che hanno trovato irregolari, se le dichiarazioni non sono state veramente presentate o se si tratta di errori, se ci sono altre cose. Però insomma, mi sembra che l'operazione comunque sia importante. L'amministrazione arriva in ritardo, si è mossa probabilmente in ritardo. Secondo me è importante che qualcosa cominci a muoversi. Ci sono a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, enormi potenzialità di dati da utilizzare, di software da usare per far dialogare le banche dati tra di loro, perché a volte... Sì, tra l'altro anche su base europea, voi oggi pubblicavate, al di là di questa... anticipazione, anche tutto un rapporto, chiamiamolo così, che riguarda la possibilità di scambiare dati a livello europeo, questo, tra diciamo agenzie delle entrate europee. Sì, diciamo che è una cosa che funziona un pochino con lo stesso principio. La base di dati c'è, gli archivi ci sono, bisogna studiare i software, gli applicativi che facciano dialogare tra loro le banche dati, ed è quello che, come segnaliamo anche oggi sul Sole 24 Ore, ora l'Unione Europea si appresta a fare, perché un altro enorme problema dell'evasione è quello delle frodi legate all'IVA, no? Che in Europa insomma sottrae miliardi e miliardi di risorse. Allora, domanda, alcuni ascoltatori ci fanno notare che è sbagliato parlare di nero, e altri ci chiedono: ma come fanno se l'azienda per cui hanno fatto la consulenza emetteva fattura? Questi cosa facevano? La strappavano, la buttavano via? Chiedo banalmente, no? Perché... No, è esattamente così, cioè io percepisco un compenso da una, da un'azienda, e non lo dichiaro al fisco. Cioè, l'azienda è regolare? L'azienda è assolutamente regolare, perché ha pagato il compenso, lo ha indicato nella sua dichiarazione dei redditi e in questa dichiarazione particolare che si chiama modello 70 dei sostituti d'imposta. Chi, diciamo, non ha fatto tutto quello che avrebbe dovuto, e chi ha percepito questo compenso, questa somma, perché quando tu percepisci una cosa, lo sappiamo tutti, lo devi mettere nel tuo modello unico. È la base. I redditi medi dichiarati praticamente sono nord-ovest 21.480 euro, nord-est 19.800, centro 19.700, sud 15.000, isole 15.470, e dove si evade il Lazio 42 milioni non dichiarati, di questa indagine sto parlando sempre, Lombardia 42 milioni, Campania 15, Puglia 8 milioni, Piemonte 8 milioni. Ci chiedono molti su questa che abbiamo chiamato forse in maniera impropria la classifica dell'evasione, cioè i medici, avvocati, architetti, intermediari del commercio sono risultati statisticamente quelli, diciamo, con maggior tipo di dichiarazioni non fatte. Non è giusto parlare di nero, perché in effetti... Naturalmente ci riferiamo sempre a questo campione, quindi parliamo dei 1500 che sono stati osservati in questa particolare indagine income zero della, della Guardia di Finanza. Non è assolutamente una cosa che possiamo generalizzare, però insomma di questi 400 che sono risultati irregolari sui 1500 esaminati, il 15,3% esercitava la professione di medico, e il 15% di geometra, e così via. Come giustamente ricordavi tu, ci sono anche alcuni giornalisti all'interno della lista. Allora, qui si ha la curiosità sui nomi, però non sono i sottoscritti, questo posso dire, no. Perlomeno. Allora, ultima domanda che ho per te, invece chiedono delle cose un po' tecniche, ma insomma, la certificazione dei compensi che fa l'azienda a cui fattura l'evasore, in questo caso doveva finire, dall'altro ci chiedono se non c'è l'obbligo di ritenuta di imposta alla fonte. Sì, certo, ma appunto l'azienda ha fatto, ha fatto il 20% tutto, cioè l'azienda ha fatto tutto, ha fatto la ritenuta se la doveva fare, ha fatto la ricevuta se la doveva fare, eccetera, ha allegato tutto e ha scritto tutto nella sua dichiarazione dei redditi. Chi non ha fatto altrettanto è il soggetto che ha percepito questi importi. Ecco, invece rispondiamo all'ultima domanda, alcuni chiedono: ma cos'è già l'avvio del primo redditometro? No, mi sembra che non c'entri niente, cioè proprio il controllo più banale del mondo. No, questo, ripeto, questo è, bravo, hai usato le parole giuste, è il controllo più banale del mondo, cioè l'azienda ha corrisposto a me un certo importo e io non l'ho dichiarato sulla mia dichiarazione dei redditi. Bastava incrociare il codice fiscale che l'azienda ha indicato nella sua dichiarazione con il mio codice fiscale, e avrebbero scoperto già da mo' che in realtà io non avevo dichiarato nulla, in realtà io ho sempre dichiarato tutto. grazie Salvatore Padula. Adesso borsa, devo dare qualche ragguaglio, diciamo, sul tema di apertura, che poi era l'apertura oggi del Sole 24 Ore. Allora, ripetiamo, hanno controllato le consulenze, collaborazioni sopra i 100.000 euro di, diciamo, imponibile, non come 100.000 euro di dichiarazione dei redditi, ma le consulenze che sono state emesse per oltre 100.000 euro nei confronti di un soggetto. Due, alcuni di voi scrivono: tanto alla fine patteggiano. No, in questo caso no. quello che può avvenire è il concordato in cui si paga un po' meno, però dipende, perché se molti di questi sono evasori totali, è poco da concordare. D'accordo invece con chi scrive sempre al 349-238-6666, come diceva prima Salvatore Padula, che la vera notizia è che non si sia fatto prima, cioè un controllo così banale come quello del codice fiscale e della fattura emessa dalla società. Le società, le ditte, hanno fatto il loro lavoro, e un controllo così banale come codice fiscale e fattura emessa, cioè, è veramente una cosa da ragazzi. La domanda vera, lo scandalo, è perché non si è fatto fino adesso. Ultima risposta: se l'azienda ha fatto la ritenuta da conto, dov'è l'evasione? Eh no, perché se hai una ritenuta da conto al 20%, quella è un anticipo, diciamo, di, è appunto un acconto fiscale che versa l'azienda, ma tu devi versare la differenza, che magari è aliquota massima al 23%. Certo che c'è evasione. Comunque adesso la borsa. Allora, molto molto buona la giornata, alla fine chiude con un più 1,90%, arrivata anche sopra il 2 Piazza Affari, sopra il 2 chiude Parigi, più 2,1, Francoforte più 2,1, Londra più 1,6, l'America più 1%, euro su dollaro a quota 1,39,70, molto forte oggi Azimut, quindi società del risparmio gestito, più 4,1, Saipem più 3,4 come UbiBanca, il 3,1 lo guadagna Bulgari e anche Generali, il 3% in Pregilo, il 2,80 Mediaset Luxottica, il 2,70 Mediolanum e Pirelli, il 2,5 STMicroelectronics e Prismian, il 2,2 Italcementi, Intesa San Paolo e CIR, Mediobanca più 2 come Unicredito ed anche Enel, più 1,80% Eni, più 1,70 Geox, più 1,60 Parmalat, più 1,3% Telecom, più 1% Ansaldo, Fiat, Finmeccanica, Popolare di Milano e Monte dei Paschi, ma anche A2A. Ha perso Autogrill, meno 0,6%, l'Automatica, mezzo punto, Snam, meno 0,1%. Allora, le dichiarazioni rilasciate dalla Federal Reserve e i conti di JP Morgan hanno dato là agli acquisti. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Questi mi sembrano i due elementi principali, tutti e due americani in qualche modo. Come mai così forte Saipem? Poi arriviamo anche a Azimut, ma Saipem, partiamo da Saipem, sopra i 32 euro per azione, sì, più 3,4. Va in scia al petrolio che grazie alle stime, la revisione delle stime a rialzo da parte dell'Agenzia Internazionale del Greggio per la domanda mondiale di petrolio, stime aumentate a rialzo, Saipem che è legata a doppio filo appunto a questo comparto, ha quindi cavalcato il rialzo delle stime anche del greggio, che questa mattina in Asia ha sfiorato gli $83 al barile. Ancora, per quello che riguarda invece Azimut, bene anche UbiBanca, Generali. Sì, Azimut diciamo che già da diverse sedute che è molto brillante, settimana scorsa il management della società aveva indicato come obiettivo del piano industriale quello di raddoppiare le massime gestite nei prossimi 5 anni, il mercato ha dato fiducia al management in questo senso e quindi ha scommesso sul titolo. Bene comunque, come dicevi tu, anche le principali assicurazioni finanziarie, certamente dopo i dati di JP Morgan, per cui c'era molto nervosismo sul mercato, ma che poi si sono insomma rivelati sostanzialmente positivi, soprattutto dal punto di vista degli utili. Ancora sui titoli, al di là appunto di Saipem e di Azimut, abbiamo visto andare particolarmente bene in Pregilo, più 3%. Ci chiedete di fondiare assai, avete ragione, perché è stata sugli scudi, cioè e sotto i riflettori a lungo. Mi sembra oggi che il rialzo ci sia, ma non sia così forte su Fondiaria assai. Ma vorrei continuare intanto su Impregilo, poi arriviamo anche a Fondiaria. Sì, anche per quanto riguarda Impregilo si tratta di un'onda lunga di rialzi, da settimana scorsa il titolo ha guadagnato quasi il 7%, cioè da quando è stato annunciato un accordo molto ampio con il fondo Mandarin attivo in Cina per la controllata di Impregilo Fisia, che potrà dunque approfittare delle grosse opportunità infrastrutturali presenti sul mercato cinese. Fondiaria Assai, eccola qua, più 0,80%, 8,34 euro. Il Banco Popolare, mi chiede un ascoltatore che la chiama ancora Popolare di Verona, no, il Banco Popolare non è sospeso, più 0,70%, non è che possiamo leggere tutti i titoli. Andiamo, vabbè, Autogrill immagino soffre un po' per un euro di nuova quota 1,40, dimmi solo... Sì, poi anche qualche realizzo. Insomma. Qualche realizzo, migliori e peggiori, al di là della Lazio, molto forte, Fiera Milano, più 8,1%, Piaggio, più 6,45%, male invece, Sopaf, meno 4,3%. Vabbè, la Lazio mi sembra un titolo così sottile che è altamente speculativo, più 20%. In realtà interessante l'andamento di Fiera Milano da un lato di Piaggio dall'altro, se ci sono novità. Ma guarda, per quanto riguarda Fiera Milano, l'attesa è per domani, quando è stato fissato il termine ultimo da parte del sindaco Letizia Moratti per i privati che dovranno accettare l'accordo sulle aree, tra cui ci sono delle aree per l'Expo che sono anche proprietà di Fondazione Fiera, e quindi la speculazione è fondamentalmente su questo. Per quanto riguarda Piaggio, ci sono forti acquisti, ma non ci sono motivi particolari per il rialzo. Ancora Colanino, che ha appunto detto recentemente che è molto soddisfatto per la notizia. Sì, ma diciamo non nemmeno noi abbiamo visto notizie di mercato. Invece notizie di mercato sono arrivate sul settore dell'information technology. E perché? Perché oggi, come ricordavamo, Intel ha distribuito ha diffuso i conti del terzo trimestre. Avremo tra pochi minuti il nostro ospite, l'amministratore delegato di Intel Italia e Svizzera. Questo però ha ben mosso tutto il settore, a partire da ST Microelectronics, che è concorrente, ma insomma si muove sul settore. Sì, questo è quello che gli operatori chiamano il classico effetto chip, che parte dall'America la notte prima con la diffusione dei dati di Intel, dati in questo caso positivi, poi il giorno dopo arrivano i dati dell'olandese ASML, che addirittura per il 2010 stima un giro d'affari ai record storici, e poi si riversano su ST, che è andato in borsa, ha guadagnato oltre il 2%, come dicevi tu. Allora, dicevamo che il settore della cosiddetta information technology, in senso stretto però soprattutto dei semiconduttori, si è mosso molto perché durante la notte italiana sono stati pubblicati i dati del numero uno al mondo, il primo produttore al mondo di chip, che è appunto Intel, ha l'80% del mercato, 80.000 dipendenti, e sono dati trimestrali come utile veramente da record. Siamo in collegamento con, a livello mondiale chiaramente, siamo in collegamento con l'ingegnere Dario Bucci, che è amministratore delegato di Intel Italia e Svizzera. Buonasera, ingegnere. Buonasera a voi. Allora, dati oggettivamente ottimi quelli che voi avete diffuso come gruppo nel terzo trimestre. Quasi 3 miliardi di dollari di utili, stiamo parlando del gruppo complessivo Intel, più 60% rispetto al terzo trimestre del 2009. Come avete fatto? Tanto per mettere in prospettiva, il terzo trimestre 2009 non è stato un buon trimestre, quindi questo ovviamente esalta invece il buon trimestre del 2010. Si basa fondamentalmente su una ripresa delle aziende a livello mondiale per quanto riguarda gli investimenti in information technology, un mercato di paesi emergenti sicuramente più vivace di quanto non ci aspettassimo, e invece un mercato consumer nell'Europa e negli Stati Uniti, quindi nei mercati maturi, un pochino più lento di quanto non ci aspettassimo alla fine dello scorso trimestre. Però in generale un'ottima accettazione dei nostri prodotti di fascia alta, che hanno contribuito a generare questa marginalità. Prodotti di fascia alta, mi scusi, cosa intende esattamente? Beh, ovviamente noi produciamo un range di microprocessori che passano da un livello, diciamo, di ingresso, la famiglia dei netbook, che sono oggetti ovviamente soprattutto per fruire di contenuto da internet, a ovviamente prodotti per notebook, e all'interno dei notebook noi abbiamo la famiglia Core i3, Core i5, Core i7 è la fascia più alta, 5-7 sono i prodotti di fascia più alta, e direi che hanno avuto una buona rispondenza dal mercato. Ecco, come si spiega? Immagino che i prodotti di fascia più alta siano anche quelli più cari. di solito così. Insomma, come si spiega che i margini più alti di profitto li avete avuti sulla fascia, sulla gamma più cara, nonostante la crisi ancora in atto? Beh, perché come cercavo di accennare in precedenza, la rispondenza da parte del mercato di questa famiglia di prodotti è stata molto buona, quindi il valore che noi portiamo, questi prodotti hanno grafica integrata consentono di modulare le prestazioni e quindi i consumi in funzione dell'utilizzo, hanno una serie di caratteristiche che hanno fatto sì che il mercato li stia premiando. Da dove arriva la maggior parte della domanda per i vostri chip? Beh, voi notate che insomma a guidare questa ripresa, che è ripresa in alcuni paesi, è una ripresa debole in altri, sono soprattutto Cina, India e Brasile? Ma diciamo che questi hanno contribuito molto al risultato del terzo trimestre, anche se in valore assoluto è ancora il mercato dei paesi maturi quello che costituisce la maggioranza della domanda. Però è chiaro che questo dei mercati emergenti è un mercato addizionale con dei tassi di crescita molto elevati, molti di questi paesi sono la prima informatizzazione e come tale vedono un'introduzione molto veloce delle nuove tecnologie. Ancora, per quello che riguarda invece il mercato complessivo, e questo mi interessa particolarmente, oggi dati di Assintel, che appunto raggruppa gli operatori del settore, hanno dimostrato come la crisi non stia risparmiando il mercato dell'information technology. In Italia praticamente si arriverà nel 2010 a un calo del 7,6% come valore e del 4,5% come volume complessivo. Tra l'altro vanno particolarmente male l'hardware, meno 18%, i servizi, meno 3,8%, in ripresa al software. Come si spiega, diciamo, l'andamento complessivo del mercato rispetto ai dati che ha appena illustrato? Beh, l'Italia ha vissuto questi primi sei mesi un rallentamento del mercato consumer, diciamo soprattutto negli ultimi tre. Ci sono dei fenomeni che hanno in qualche modo generato questo rallentamento. Primo fra tutti il mondiale di calcio, il secondo la conversione da analogico a digitale di molte regioni per quanto riguarda la televisione. Questi hanno distratto diciamo la capacità d'acquisto del consumatore verso televisori e diciamo televisori a LED, televisori a plasma, nonché alcuni incentivi statali li hanno portati magari ad anticipare l'acquisto su grossi elettrodomestici. Questo alla fine ha in qualche modo un po' depresso un mercato che negli ultimi due anni invece è stato estremamente brillante, estremamente vivace, e noi abbiamo visto per la prima volta anno su anno qualche segno meno nelle vendite nel mercato consumer. Le aziende direi che invece stanno lentamente riprendendo, però ovviamente lentamente, quindi dopo 18 mesi di non investimenti anche in Italia sta riprendendo, ovviamente però siamo ancora lontani da una ripresa complessiva come altri indicatori in qualche modo stanno segnando. Grazie al numero uno di Intel Italia e Svizzera, ingegnere Dario Bucci. Grazie a voi. Allora, prima di accennare al rapporto della Caritas, passiamo ad altre notizie di mercato e poi arriveremo invece all'iniziativa della LUIS per i giovani, per chi ha meno di 35 anni, iniziativa importante e che ci permetterà anche di commentare quanto scritto qualche giorno fa su Corriere della Sera da Ernesto Galli della Loggia, ossia perché le famiglie italiane mandano sempre più figli non all'estero a studiare, ma in scuole straniere in Italia. Chiaramente chi se lo può permettere. Detto ciò, all'Italia, oggi il numero di Alitalia, Rocco Sabelli, a margine di un convegno sulla mobilità integrata, al microfono della collega dell'agenzia di stampa Radio Coro, cioè 24 ore, Paola Catarsi, ha sostenuto che insomma il trimestre sta andando bene e il 2010 dovrebbe chiudersi oltre gli obiettivi prefissati. Il terzo trimestre è andato benissimo, non bene, quello che si è concluso a settembre. Noi abbiamo fatto 7 milioni di passeggeri in questi tre mesi, quindi il 10-11% in più, 700.000 passeggeri in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Siamo sopra ai tassi di riempimento di break-even dell'azienda, quindi io penso che nel consiglio di amministrazione del 28 ottobre prossimo porteremo una trimestrale molto positiva. Ovviamente andiamo incontro al quarto trimestre dell'anno, che tradizionalmente è un periodo di stagionalità non favorevole, ma rispetto al nostro target di dimezzare le perdite, io penso che alla fine dell'anno potremmo esserci, chissà, magari anche qualcosa in più. 2011 non abbiamo previsioni da fare, noi dobbiamo farcela a tutti i costi, dobbiamo pareggiare i conti, quello è il nostro obiettivo. Questo 2010 che si chiudesse come noi speriamo rappresenterebbe una buona premessa per mantenere quell'obiettivo. E poi sempre il numero uno di Alitalia, Rocco Sabelli, sulla tratta Milano-Roma, ha detto Rocco Sabelli, non c'è, almeno stando alla dichiarazione dei protagonisti, una guerra aperta tra treni e aerei, sempre al microfono di Paola Catarsi. La Milano-Roma pesa sui nostri fatturati per il 5-6%, quindi è evidente che una destinazione, una rotta importante in termini di valore, ma il turnaround di Alitalia, lo sviluppo di Alitalia si fa sul traffico domestico nord-sud, che non è servito da nessuno, intendo ferrovie ovviamente, sul traffico internazionale e sul traffico intercontinentale. Sulla Roma-Milano sta succedendo quello che era facile immaginare, quello che è successo in tutti i posti del mondo. C'è della gente che si sposta sul treno perché preferisce, diciamo, soprattutto quelli che non devono viaggiare in giornata, la clientela meno business. Noi siamo soddisfatti di come stiamo difendendo quella posizione sull'azienda, il corporate, il mondo corporate ha cominciato a viaggiare e questo naturalmente per noi è una buona notizia perché fa ricavi medi superiori. E ancora poi ha chiesto di ampliare la collaborazione tra l'Italia e Air Italy. Air Italy, compagnia dipendente partecipata al 40% da Sinergo, che è il fondo di Gianfilippo Cuneo, ha detto sta andando bene questa all'Italia e Air Italy si dividono le rotte, fanno una specie di code sharing nelle tratte, sta andando bene. E invece ha declinato l'invito di Montezemolo di fare una carrozza del nuovo treno alta velocità targata all'Italia. E su Montezemolo, la sua concorrenza di NTV, è intervenuto anche l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, che ha detto il mio problema non è Montezemolo ma si chiama Deutsche Bahn, quindi la FS tedesche. Tra l'altro oggi per la prima volta un treno ad alta velocità tedesca ha attraversato il canale della Manica passando nel tunnel dove ogni giorno circolano invece i treni Eurostar. Il primo test per il treno ICE o ICE 3 della Deutsche Bahn, che serve a dimostrare che i convogli tedeschi possono transitare tranquillamente sotto il tunnel della Manica. Tunnel che sarà presto aperto alla concorrenza come conseguenza della liberalizzazione del traffico ferroviario nell'Unione Europea. La formazione, l'istruzione dei giovani, se ne parla molto, forse anche troppo rispetto a quello che poi si fa, anche perché, come ricordiamo sempre, slitta venerdì l'esame nell'aula della Camera per la riforma dell'università. Il nodo resta ancora quello delle coperture del provvedimento, coperture finanziarie bocciate in vari punti dalla relazione della Ragioneria Generale dello Stato, in particolare per quanto riguarda la norma sul piano di 6 anni di concorsi per 9.000 ricercatori universitari. Ma noi non parliamo adesso tanto di formazione università, ma soprattutto di aiutare, diciamo, come obiettivo i giovani, quelli che hanno meno di 35 anni, un'iniziativa che nasce dall'Università Luis Guido Carli di Roma, e per costruire, trovare idee e progetti per rimettere in moto il paese, un obiettivo quantomeno ambizioso. Partirà il prossimo 16 ottobre da Luis, si chiama, della prima tappa, il progetto Italia Camp per i giovani sotto i 35 anni, leggo testualmente, che non ci stanno a soggiacere alla cultura dell'insoddisfazione, della scarsa meritocrazia, dei sospetti, del gossip, ma che invece vogliono e si propongono di costruire con il contributo delle idee di tutti pezzi di sano futuro. Ci saranno Gianni Letta, che è presidente onorario, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Antonio Catricalà, numerose altre testimonianze, dal direttore generale della Banca d'Italia Fabrizio Saccomanni al numero uno di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti, e poi avrà le tappe a Lecce, Bruxelles, Milano, e grazie al supporto di 40 università, centri di ricerca, fondazioni e think tank. Pierluigi Celli, direttore generale della LUISS, buonasera. Buonasera. Ma cosa vi siete messi in testa? Vi accuseranno di fare politica. Cosa vuol dire, diciamo, aiutare i giovani concretamente sotto, più giovani di 35 anni, che non ci stanno a soggiacere alla cultura dell'insoddisfazione, della scarsa meritocrazia, dei sospetti, del gossip? Cioè, come farete? Questa è un'iniziativa che hanno preso giovani partendo dall'università LUISS, ma poi aprendosi alle altre università di Roma, e poi progressivamente una quarantina di università tra italiane e straniere, per riprendersi un po' in mano, come dire, il loro destino personale dal punto di vista della possibilità di occuparsi e di giocare un loro ruolo all'interno del paese sostanzialmente. Nasce da un anno fa, quando organizzavo il primo barcamp qui in LUISS, un sabato mattina e pomeriggio, in cui erano un migliaio. Ci hanno preso gusto, hanno visto che alcune cose si potevano fare, che alcune iniziative potevano prendere la strada di diventare delle imprese, e quindi hanno detto: ma perché non lo facciamo coinvolgendo il maggior numero possibile di giovani in Italia? E così è nata, insomma. Allora, da qui vorrei partire, perché insomma è una rete che voi state anche creando, che state facilitando, se ho ben capito, oltre a tutto, e vorrei arrivare a un tema che riguarda l'istruzione, ma non a quel punto universitario. Lei avrà letto, come molti, il fondo di Galli della Loggia su Corriere della Sera, che ha detto, insomma, sarà una mia sensazione, ma sta prendendo piede, non una moda, ma insomma una scelta nelle famiglie italiane, anche più abbienti chiaramente, di mandare i figli nelle università o nei licei o nelle scuole superiori, nelle scuole elementari straniere. Cioè, non è più il figlio che va all'estero, come lei suggerì a suo figlio in una lettera che molto fece discutere, di andare a cercare fortuna all'estero, ma qui addirittura dalle elementari alle medie. Lei lo vede, da docente ma anche esperto, diciamo, di formazione di classe dirigente, come un problema reale? Io condivido molto l'articolo di Della Loggia, per una semplice ragione: che un'identità di un paese non può, un'identità di un paese passa anche dalla lingua. La cultura è in gran parte una cultura anche linguistica. Abbandonare la lingua semplicemente, a favore di un'altra lingua e di un'altra cultura non è mai così conveniente. Un'altra cosa è aggiungere alla propria lingua un'altra lingua, evidentemente, per capire, per farsi intendere, per viaggiare molto più velocemente in tutte le parti del mondo, e una cosa invece lasciarla perdere la propria lingua, quindi non praticarla. Siccome noi poi alla fine pensiamo con le parole che sappiamo, finiamo anche per pensare con le lingue che conosciamo. Sì, però io non voglio difendere i genitori che mandano i figli alle scuole tedesche, in americano, in inglese, però a me sembra di notare, nel ragionamento che faceva Galli della Loggia, Presidente Celli, anche un altro aspetto, cioè non ci si fida più della scuola dell'obbligo italiana, lasciamo stare privata pubblica per un momento, ma proprio dei piani formativi della scuola italiana. E questo che forse lascia ancora più perplessi. Cioè, io posso capire che uno dica: vabbè, mio figlio voglio che faccia la scuola tedesca perché gli servirà nella vita. Vabbè. Ma ormai si sceglie come alternativa la scuola italiana, non come qualcosa in più, un'integrazione. Lo so, però non va bene, bisogna battersi per la scuola italiana. Bisogna battersi per le università italiane, poi possono essere integrate da corsi all'estero, ovviamente, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista, secondo me, le cose vanno cambiate nel paese in cui si è, non semplicemente abbandonate. Lei ha richiamato la famigerata lettera, eccetera, eccetera, ma da quella lettera è nata tutta una serie di movimenti che portano in Italia, cioè, tra l'altro, l'Italia Camp è proprio anche una risposta che noi abbiamo costruito per far vedere che si possono fare delle cose proprio anche in Italia. Contro un degrado generalizzato che sta sotto gli occhi di tutti, non è che sia una cosa inventata, insomma. Ecco, altro tema che ci chiedono anche gli ascoltatori, qui parliamo della scuola dell'obbligo, non solo dell'università. Italia e la scuola pubblica ci sono, inutile contestarli, sono 8 miliardi di euro in 3 anni, 2 miliardi e 600 milioni l'anno nella manovra estiva del 2008. Quando lei vede, ne abbiamo fatto un'intera puntata su questo, tutto un insieme di iniziative di genitori perché vengono invitati a fare gratta e vinci, alunni con la gratta e vinci, insomma tutte le iniziative che abbiamo raccontato sui gli sponsor a scuola, l'ultimo caso quello della Puglia, non, al di là del fatto che siamo tutti d'accordo che i privati possono e debbano contribuire, non la demoralizza un po' vedere che i genitori ormai danno per scontato di dover portare la carta igienica, le matite? Il problema è proprio questo, cioè rassegnarsi a questa condizione qua. Mm-hmm. Questo è il problema, cioè io credo che invece rispetto a questa condizione c'è anche un altro ragionamento da fare. È chiaro che i primi che dovrebbero pensare a ricostruire il tessuto connettivo della cultura della scuola devono essere i professori e gli insegnanti, che un po', come dire, in qualche modo si sono anche lasciati andare. Obiettivamente le condizioni non li hanno favoriti, quindi dovrebbe essere uno sforzo civile del paese rispetto a queste cose. Non far mancare i fondi, ma anche gli insegnanti riqualificarsi e impegnarsi molto, cioè che altrimenti le cose non possono funzionare. Ecco, un caso che ha fatto molto discutere, abbiamo avuto come ospite anche l'assessore all'istruzione della provincia di Trani, Barletta Andria, è quello della scuola che ha detto sostanzialmente i privati entrano con 70 euro, comprano un banco, una sedia per gli alunni e potranno mettere la loro firma, cioè come contributo sul banco della scuola. Vorrei intanto un suo commento rapidissimo perché lo ringrazio, l'assessore Pompeo Camero di nuovo in collegamento. Buonasera assessore. Buonasera a te e buonasera ai nostri radioascoltatori. Allora, Presidente Celli, la convince che i privati comprino il banco e ci mettono poi, insomma, donato da Pierluigi Celli? Io credo di sì, una volta lo facevano con le chiese, c'erano in chiesa i banchi con i donatori, i benefattori, che lo facciano anche con le istituzioni più civili della scuola, secondo me se sono in condizione. Ecco, allora però assessore, però lei ci deve far capire una cosa, perché noi abbiamo dato ampio spazio alla vostra iniziativa come provincia, lei ci ha spiegato che siete una provincia neonata, che avevate poco soldi, poi scopriamo oggi in un pezzo di Gian Antonio Stella che avete speso 80.000 euro per arredare tre stanze del presidente. Sono la bellezza di 1267 banchi più 1267 sedie. Ma allora, va bene far entrare i privati, ma non per fare tre stanze a 80.000 euro, con spese anche, riporto il pezzo di Stella, interessanti, perché insomma 3.700 euro per un tavolo, 6.000 euro per 12 sedie, Allora, era necessario spendere 80.000 euro per il presidente, oppure lui poteva stare su un tavolo più corto e quelle diventare banchi? Intanto la ringrazio perché almeno lei mi dà la possibilità a due minuti replicare. In pratica è questo, noi stiamo parlando di una provincia che non ha arredi, cioè quindi acquistare l'unico tavolo per la giunta provinciale che finisce all'interno dell'ufficio del segretario generale, che a sua volta non aveva la scrivania, non aveva il... Noi non abbiamo ancora assolutamente armadi, il nostro unico arredo è quello che abbiamo dovuto concentrare in quelle tre stanze. Se poi ovviamente riusciamo a capire che cosa è accaduto in questo contesto, le dirò che addirittura noi abbiamo speso molto poco, perché stiamo parlando, ripeto, di una provincia che pur giuridicamente nata nel 2004 sostanzialmente scopre di doversi dare degli arredi nel 2009. Dico che la stessa cosa non è accaduto per Monza e Brianza, che dal giorno delle elezioni si sono insediati all'interno di un immobile già arredato. Però posso dire, in un mondo normale, cosa mi sarebbe piaciuto vedere, forse populista, che voi utilizzavate questi 80.000 euro per 1.277 banchi più equivalente di sedie e chiedevate ai privati di pagarvi il vostro tavolo, magari mettendo anche l'etichetta, grazie a Sebastiano Barisoni, la provincia ha un privato. Cioè, non il contrario, non il tavolo pagato per gli alunni e voi vi comprate quello vostro. Comunque, grazie anche all'assessore, grazie a Pierluigi Celli, direttore generale della LUIS. Da Sebastiano Barisoni, buona serata. Radio 24. La passione si sente.